Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Chi ci conosce da tempo sa che noi raccontiamo spesso nel nostro programma vite e carriere di grandi musicisti, musicisti che per un motivo o per l'altro hanno rappresentato un caposaldo nell'arte, nella musica rock e non contemporanea, che hanno influenzato in modo decisivo quello che noi ascoltiamo, quello che cantiamo, quello che ci piace, una carrellata di giganti che ovviamente io faccio con doppia gioia, perché sono i giganti che hanno formato anche me molto spesso, e lo continueremo a fare. La musica continuerà a avere un ruolo primario, e il personaggio di oggi per esempio è un personaggio del quale noi non potevamo non parlare. È uno dei più influenti rappresentanti del rock progressive, è in assoluto una delle figure di maggior spicco del panorama musicale mondiale contemporaneo. Stiamo parlando di uno straordinario bassista, anche chitarrista, un cantante unico, ma anche un autore di canzoni che hanno fatto epoca, produttore di album che sono stati dei successi mondiali nei tempi in cui le canzoni belle facevano successi mondiali e quelle brutte non le voleva nessuno. La puntata di oggi è dedicata a Greg Lake, famoso perché è stato membro di due tra le band più influenti dell'epoca, prima per un periodo breve ma denso di significato, membro dei King Crimson, la mitica band che esiste ancora, la band di Robert Fripp, e poi fondatore insieme a Emerson e a Palmer del gruppo Emerson, Lake e Palmer, che è stato un trio di rock progressivo di successo straordinario soprattutto negli anni 70, e peraltro è stata la prima band che io ho visto suonare dal vivo. Era il Vigorelli, io avevo 16 anni, e il concerto si apriva con una frase famosa: benvenuti amici nello spettacolo che non finirà mai, welcome back my friend to the show that never ends. Questo è un famoso passo della suite Carnival 9 di Emerson, Lake e Palmer, ne parleremo più avanti, è una frase diventata famosa, la frase immagine del gruppo, si può definire però anche il motto di una vita, la vita di Greg Lake, dedicata tutta la sua immensa passione per la musica, fin da piccolo fino all'ultimo istante. Questo grande musicista ha messo in scena uno show che non finisce. Greg Lake nasce il 10 novembre del 47 a Poole, una cittadina portuale nella contea del Dorset, nel sud dell'Inghilterra. È un'infanzia che lui definirà felice ma povera. Da bambino fa addirittura lo scaricatore al porto di Poole, però la sua passione è la musica da subito. Nel 57 ascolta per la prima volta Lucille di Little Richard e decide che da grande farà il cantante. In realtà ha fatto molto di più che il cantante. I suoi genitori lo assecondano in questa passione, gli regalano una chitarra, fanno anche dei sacrifici, però lo aiutano a dimostrare quello che vale, e lui dimostra subito di avere un dono incredibile sia come chitarrista che come cantante, ma anche come autore di canzoni. Pensate che a 12 anni compone un brano che anni dopo diventerà famosissimo e diventerà un successo mondiale, uno dei primi cavalli di battaglia di Emerson, Lake e Palmer. A 12 anni Greg Lake ha composto Lucky Man, un titolo premonitore, uomo fortunato, titolo di buon auspicio, testo e titolo che Greg Lake spiegherà molti anni dopo. È vero, ho scritto Lucky Man quando avevo 12 anni. Mia madre mi comprò una chitarra. Sono stato molto fortunato, perché la risposta alla mia richiesta di averne una fu sì, invece che no. È stata la prima fortuna della mia vita, perché se la risposta fosse stata no, la mia vita sarebbe stata totalmente diversa. Ebbi la mia chitarra, imparai i primi accordi, e con quelli scrissi Lucky Man. Mi sentivo una sorta di menestrello medievale, e difatti la canzone è una specie di ballata. La scrissi tutta nella mia mente, e lì l'ho tenuta per anni prima di registrarla. È stata sempre il mio portafortuna. E io di fortuna nella vita devo dire che ne ho avuta tanta. E a 17 anni Greg Lake lascia il suo lavoro di scaricatore di porto, termina gli studi, si compra una chitarra nuova, una Fender Stratocaster rosa. La prima band nella quale comincia a suonare si chiama Unit 4, siamo nel 65. Poi incontra un altro chitarrista più o meno suo coetaneo, che è destinato a diventare una leggenda della musica, almeno quanto lui, quanto Greg Lake, avrà un ruolo decisivo nella sua vita. Questo ragazzo chitarrista agli occhialini, capelli ricci, si chiama Robert Fripp. Per il momento i due non suonano insieme, sono chitarristi entrambi. Greg Lake suona in diverse band: Time Checks, The Shamed, The Shy Limbs, The Gods. Ma nel 69 si incontra di nuovo con Fripp, che ha una sua band con due fratelli, Michael e Peter Giles. Si chiamano semplicemente Giles, Giles e Fripp. Non hanno molto successo. Fripp ha voglia di qualcosa di nuovo, ingaggia un polistrumentista che si chiama Ian McDonald e poi ingaggia, se così si può dire, un grande artista che compone canzoni ma soprattutto testi, si chiama Peter Sinfield. Chiede a Greg Lake di entrare a far parte del suo gruppo. Lake arriva, deve sostituire Peter Giles che suonava il basso, insomma deve cambiare strumento, un colpo d'ala è in arrivo. Così questo gruppo prova per la prima volta nello scantinato di un caffè al 63 di Fulham Palace Road. È il 13 gennaio 1969. Ci sono Robert Fripp, Ian McDonald, Mike Giles e Greg Lake, con Peter Sinfield, che è un poeta, un autore, un ingegnere dei suoni, dei video, un primo forse grande artista multimediale. 10 giorni dopo, Peter Sinfield conia il nome del gruppo a partire dal titolo di un suo brano appena composto. È un neologismo. Il poeta Sinfield lo adotta come sinonimo di Belzebù, principe dei demoni. Il nome è King Crimson, il re Cremisi. La canzone di debutto è proprio questa, la famosissima The Court of the Crimson King. Sono pezzi immortali. Io pochi mesi fa ho visto dal vivo i King Crimson, che hanno eseguito ancora The Court of the Crimson King. Stiamo parlando di quella che secondo me oggi è la musica classica, perché oggi il rock, questo rock, è la musica classica. Stiamo parlando di una band che al tempo era fatta da grandi musicisti attenti alle nuove tecnologie. McDonald suggerisce a Fripp di usare il mellotron, che è una specie di tastiera che riproduce gli strumenti musicali dell'orchestra. L'aveva già sperimentata Paul McCartney in molte canzoni dei Beatles, quando era ancora un'apparecchiatura sconosciuta. Il debutto dei quattro più Sinfield, che fa il fonico, arriva in 7 serate consecutive, dal 23 febbraio al 1 marzo del 69 al Change Is a Newcastle. Nei mesi successivi la band suona in una 20 di concerti tra Londra e dintorni. Poi il colpo d'ala arriva il 5 luglio e King Crimson partecipano allo storico concerto organizzato dai Rolling Stones in memoria di Brian Jones a Hyde Park. Suonano davanti a 650.000 persone. La band arriva immediatamente a una grande popolarità. Poche settimane dopo la Island Record firma il contratto per l'album di esordio, che si chiamerà appunto In the Court of the Crimson King. L'album esce nel 69 in ottobre, tutti rimangono sconvolti nel panorama hard rock e blues della scena musicale inglese e americana. E King Crimson sono un genere assolutamente nuovo, elementi antichi, sonorità moderne, uno stile che risente delle diverse estrazioni dei componenti del gruppo. Si parla di musica classica, di rock psichedelico, di folk, di jazz, e perfino ritmi militari, musica dell'epoca vittoriana. Insomma, è un insieme di generi che conia un genere nuovo. Il successo è inaspettato ma grande. La band era sconosciuta, addirittura c'è chi come Pete Townshend, il chitarrista degli U, parla di un capolavoro assoluto. I componenti del gruppo hanno tutti una grandissima genialità, però ce n'è uno che in qualche modo emerge allo scettro del comando, ed è naturalmente lui, è Bob Fripp. E quindi arrivano le prime frizioni. Ian McDonald e Mike Giles stanno faticando a tenere il ritmo frenetico non solo dei concerti, ma proprio anche del, come dire, dello stimolo intellettuale che suonare nei King Crimson comporta. Alla fine della tournée, dopo il concerto di San Francisco il 16 dicembre del 69 Giles e McDonald lasciano il gruppo. Da quel momento Bob Fripp capisce che i King Crimson sono destinati a essere la sua emanazione, e per decenni ruoteranno i membri della band attorno a lui, a Bob Fripp. E così all'inizio degli anni 70, insomma, arrivano varie formazioni dei King Crimson, fino a che anche Greg Lake decide di abbandonare la band. In realtà è il motivo importante alla base di questa decisione. È capitato in più di un'occasione che i concerti dei King Crimson fossero in cartelloni insieme a un'altra band britannica di rock progressivo che si chiamano i Nice. I Nice erano una band che ruotava attorno a un pianista, un tastierista che si chiamava Keith Emerson. Greg Lake e Emerson stanno stringendo amicizia, anche Emerson è stanco del suo gruppo, sta pensando a una nuova formazione a tre. Evidentemente i due si parlano, scoprono di avere gusti musicali simili, di non essere soddisfatti delle loro posizioni. Lake ha ancora un legame quantomeno affettivo con i King Crimson, che sono rimasti in realtà in due, Fripp e Sinfield. Così quando viene offerto a Lake di partecipare al secondo album dei King Crimson in qualità di cantante, lui accetta e in cambio si fa pagare con dell'attrezzatura. Così nel 1970 esce il secondo album dei King Crimson, si chiama In the Wake of Poseidon. Ma subito dopo la fine della registrazione di quest'altro bel capolavoro che vi straconsiglio, Lake abbandona i King Crimson e si tuffa in una nuova avventura che lo vede artefice di un progetto destinato a essere un grandissimo successo, un altro punto cardine nella musica contemporanea. Nasce il cosiddetto supergruppo Emerson, Lake e Palmer, che è il batterista che arriva da un'altra band importante che erano gli Atomic Rooster. La genesi l'abbiamo raccontata in parte: Greg Lake e Keith Emerson si incontrano, vogliono dar vita a una band, chiamano un terzo elemento perché hanno bisogno di un batterista, si presenta Miss Mitchell che suonava con Jimi Hendrix, quindi un personaggio notevole. Poi arriva questo ragazzino a 19 anni, lo dicevo prima, fa parte di un trio hard rock che si era formato, che erano gli Atomic Rooster, che avevano un discreto successo, e non vuole lasciarli. Poi però incontra Lake e Emerson e capisce che quelli sono treni che passano una sola volta nella vita, e nel luglio del 70 i tre stanno già provando assieme. Scelgono di chiamarsi con i loro cognomi in ordine alfabetico, lo avevano già fatto Crosby, Stills, Nash e Young, lo fanno non solo per moda però, ma anche per il desiderio di presentarsi in maniera paritaria, in quanto, come dire, elementi singoli e già piuttosto noti. E il debutto storico di Emerson, Lake e Palmer avviene il 23 agosto 1970 al Guildhall di Plymouth. È la prima volta che i tre suonano davanti a un pubblico. Chi è presente a quel concerto non lo potrà mai più dimenticare. Nasce un mito intramontabile che da quel momento in poi rappresenterà una delle grandissime punte del rock progressive: la levatura artistica, la bravura tecnica dei tre enorme, e quindi ogni concerto è diverso dall'altro, è fatto di trovate straordinarie grazie anche a canzoni meravigliose che hanno fatto la storia. Il falco e il gabbiano. Chitarrista, bassista, cantante, autore di canzoni, produttore musicale, stiamo parlando di uno dei più grandi talenti degli ultimi 50 anni, Greg Lake, famoso come membro dei King Crimson prima e poi di Emerson, Lake e Palmer dopo. Straordinari brani originali, assoli di chitarra di grandissimo gusto, grandi produzioni, insomma lui secondo me è alla pari dei più grandi musicisti della nostra epoca. È una vita dedicata alla musica in tutte le sue forme, una passione costante iniziata da giovanissimo e durata quindi oltre 50 anni, durata per sempre. niente, siamo arrivati al grande colpo d'ala dell'estate del 70, quando Greg Lake lascia i King Crimson insieme a Emerson, che ha lasciato i Nice, e Carl Palmer, che ha lasciato gli Atomic Rooster. I tre sono diventati Emerson, Lake e Palmer dopo il loro debutto a Plymouth. I tre si esibiscono davanti alla folla oceanica che si presenta al Festival dell'Isola di Wight. Siamo tra il 26 e il 30 agosto del 70, ci sono 600.000 persone. Il Festival dell'Isola di Wight è quello, per intenderci, dove ci sarà l'ultima apparizione di Jimi Hendrix e di Jim Morrison. L'esibizione di Emerson, Lake e Palmer è stratosferica. Kate Emerson trascina su organo Hammond per il palco, lo ribalta, ci si stende sotto, lo cavalca, suona alla rovescia, conficca dei coltelli tra i tasti, tutte cose che ho visto coi miei occhi qualche anno dopo. La band porta sul palco dei cannoni caricati a salve che sparano, insomma uno show ricco di elementi spettacolari che saranno sempre parte della cifra stilistica della band. Il primo album si chiama semplicemente Emerson, Lake e Palmer, è l'album della colomba su sfondo nero. Esce nell'autunno successivo, un album deflagrante, è ricco di contaminazioni, ci sono brani di Bach e di Béla Bartók, c'è il famoso Lucky Man scritto a 12 anni da Lake, ci sono brani strumentali, il largo uso dei sintetizzatori. È l'album, peraltro, che è prodotto dallo stesso Greg Lake, ha un ottimo successo, ma i tre hanno già in mente un progetto grandioso. È un album prodotto da Lake, autore anche dei testi, che diventerà uno degli album più famosi della storia del rock progressivo. Esce il 14 giugno del 71, è il mitico Tarkus, la cui facciata A è interamente occupata dalla suite omonima. Tarkus è un'opera particolarissima, uno di quei dischi che io comprai da ragazzino in cassetta, poi più grande in vinile, poi più grande in CD e adesso di nuovo in vinile. Nella copertina c'è un mostro immaginario, una specie di armadillo con i cingoli e i cannoni, una creatura mutante, metà animale, metà macchina, quindi anche, come dire, molto avanti come concetto. Tarkus, che nasce da un uovo che si è chiuso durante un'eruzione vulcanica, che affronta, distrugge altri mostri mutanti che incontra sulla sua strada, la locusta armata di missili, uno pterodattilo con le mitragliatrici sulle ali, e poi Tarkus che incontra la manticora, l'essere mitologico dotato di testa umana, corpo di leone, coda di scorpione. Cala meglio su di lui la manticora, Tarkus che si ritira sconfitto, insomma una storia bellissima con una spiegazione molto interessante che viene fornita da William Neal, artista autore della copertina, quindi ideatore dell'aspetto del mostro. Il nome Tarkus fu inventato da Emerson, una crasi di Tartarus, cioè l'inferno, e Carcass, la carcassa di un animale morto. Il Tartaro è un luogo di profonda oscurità spirituale, svuotato di misericordia, simbolo appropriato della futilità della guerra. Distruzione e morte sono rispecchiate nel termine Carcass. I tre componenti del gruppo vollero che scrivessi il nome Tarkus con le ossa, per dare una spinta ulteriore al possente nome. Eh sì, siamo veramente a livelli altissimi e mi chiedo cos'è successo alla musica negli ultimi anni. Qui stiamo parlando di filosofia sposata alla musica, con il mostro cingolato che è la metafora dell'umanità cieca, sorda alle conseguenze distruttive della propria condotta criminale. Nei testi delle canzoni Lake inserisce in maniera ricorrente i concetti di non vedere e di non sentire, è un messaggio drammaticamente profetico e tuttora attualissimo. Dopo Tarkus esce un album live degli Emerson, Lake e Palmer, un album che si chiama Pictures at an Exhibition, è un album ancora molto particolare, è stato registrato durante un concerto alla Newcastle City Hall, è la rielaborazione in chiave rock dei brani della grande composizione pianistica del 1874 di Mussorgsky. È un'altra dimostrazione intanto del grandissimo grado di cultura, poi un disco registrato interamente dal vivo e così com'era pubblicato, con anche un film. Nell'ottobre del 71 già si sta preparando il quarto album, che esce nell'estate del 72, vedete, è un album ogni 8 mesi, si chiama Trilogy l'album, è un altro album di grandissimo valore artistico. con grandi brani diventati dei classici della band come Oh Down o la bellissima ballata From the Beginning, tutta scritta e realizzata da Greg Lake, con solo delle congas suonate da Palmer e con ovviamente l'assolo finale di Moog suonato da Emerson. From the con l'uscita di Trilogy, Emerson, Lake & Palmer iniziano un tour mondiale, Stati Uniti, Giappone, in Europa, arrivano in Italia per quel concerto formativo per me del quale vi ho parlato prima. Poi nel 73 fondano un'etichetta discografica, la Manticore Record, dal nome della creatura mitologica che avevano raccontato in Tarkus. Nel novembre dello stesso anno esce il loro primo disco, Brain Salad Surgery, che è un'espressione slang inglese che indica la fellazio. Ma al di là di questo, insomma, è un album complesso, ma forse il più rappresentativo degli Emerson, Lake & Palmer. In realtà il dibattito è aperto, perché non è che Tarkus e gli altri album non fossero da poco, eh? Il falco e il gabbiano. Brain Salad Surgery è il quinto album degli Emerson, Lake & Palmer, un progetto anche questo di grande lungimiranza. C'è una grande suite famosa che si chiama Carnival 9, dove viene immaginato un futuro in cui l'abuso, la violenza diventano forme di spettacolo. È un circo senza fine, ahimè, è stato un modo di immaginare il futuro che si è rivelato esatto. L'album viene ricordato anche per questa frase: Welcome back my friend to the show that never ends. Bentornati amici allo spettacolo senza fine, l'abbiamo accennato all'inizio della puntata, diventa la frase simbolo del gruppo, anche perché l'anno seguente viene pubblicato un triplo album dal vivo a cui viene dato proprio questo titolo: Welcome back my friend to the show that never ends, ladies and gentlemen, Emerson, Lake & Palmer, album che uscirà il 19 agosto del 74. E il tour che la band porta in giro per il mondo tra il 73 e il 74 è qualcosa di mai visto all'epoca: 25 tecnici, 40 tonnellate di apparecchiature, suono quadrifonico, 32 altoparlanti e sul palco Emerson ha un gigantesco Moog modulare, primo modello di sintetizzatore polifonico, il Moog Constellation. Poi ci sono due organi Hammond, un clavinet, un mini Moog, un pianoforte Steinway a coda lunga, un piano verticale amplificato, un altro pianoforte più piccolo. Palmer ha una batteria personalizzata, tutta costruita in acciaio inox, montata su una pedana girevole mossa elettricamente, è una pedana di 2,5 tonnellate, ha due gong, due timpani sinfonici, una campana da chiesa sospesa sulla testa che suona con una corda che tiene tra i denti. Greg Lake intanto è quello che ha un'attrezzatura meno complessa, certo ha molte chitarre e molti bassi, ha solo questo tappeto persiano disteso sotto i suoi piedi per prevenire le scosse elettriche, tre giganteschi autotreni sul tetto dei quali campeggiano uno per ogni automezzo i caratteri cubitali dei cognomi dei tre musicisti, e c'è una foto molto famosa fatta da un elicottero con i tre camion che viaggiano con Emerson, Lake e Palmer, una foto che faceva sognare noi ragazzini. Dopo questo tour colossale, Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer si prendono una pausa di riflessione che durerà fino al 77, poi ci sono dei lavori solisti in quello spazio che troveranno modo di essere riprodotti in un album che esce nel marzo del 77, Works volume primo, che contiene uno dei grandi successi di Greg Lake, la canzone C'est la vie. E nello stesso anno, a novembre, esce il volume 2 Works, che contiene forse il più grande successo di Greg Lake, cantante solista, una canzone molto particolare con un inciso strumentale che è la citazione del brano Troika di Prokofiev. La canzone ha una storia interessante perché è stata erroneamente catalogata come una canzone natalizia e è inserita in diverse compilation dedicate al Natale. In realtà Greg Lake la scrive proprio con l'intento opposto, cioè per protestare contro la strumentalizzazione del Natale. È una canzone che diventa famosissima, c'è un video che viene girato stato in Palestina, in Giordania, nel deserto del Sinai, con immagini della guerra in Vietnam, insomma un video che vuole essere un contrasto tra il messaggio del Natale e il messaggio del mondo che si sta disgregando. La canzone I Believe in Father Christmas, credo a Babbo Natale. Da questi due album che racchiudono lavori dei tre come solisti è evidente che la band di fatto non esiste più, ognuno vuole andare per la sua strada. Viene realizzato un ultimo album come Emerson, Lake & Palmer, ma è un album fatto per contratto, si chiama Love Beach ed è considerato non all'altezza degli album precedenti. E poi il gruppo si scioglie del tutto, è il 1980, sono stati venduti 40 milioni di dischi in 10 anni. Greg Lake prosegue la sua carriera come solista, pubblica due album, Greg Lake nell'81, Manoeuvres nell'83, collabora con Bob Dylan, partecipa al tour giapponese degli Asia, dove peraltro sta suonando Carl Palmer. Nell'86 dà vita per un breve periodo insieme a Cozy Powell, un grande batterista, al trio Emerson, Lake & Powell, e anche perché Palmer sta suonando con gli Asia, di John Wetton, di cui abbiamo già parlato. Poi ci sono anni nei quali Lake si impegna in particolare in cause umanitarie. Nel 92 avviene una reunion del gruppo, un nuovo album dei tre, un album di sonorità più dure che risente molto, diciamo, del clima seguente alla guerra del Golfo. L'album si chiama Black Moon. Poi c'è un altro album dal vivo registrato alla Royal Albert Hall a Londra, e nel 94 c'è un altro album di Emerson, Lake & Palmer, che si chiama In the Hot Seat. È un album registrato in condizioni molto disagevoli, con Palmer appena operato al polso, Emerson che comincia a avere i problemi sempre più gravi al braccio destro. È un lavoro notevole comunque, dove c'è una bellissima canzone di Lake che si chiama Daddy, composta nel 90 in favore del National Center for Missing and Exploited Children, dedicata a Sarah Ann Wood, una bambina rapita e scomparsa. E poi negli anni successivi i tre proseguono carriere da solisti, ogni tanto qualche reunion, ma i problemi di salute purtroppo si fanno sentire, ne abbiamo già parlato. Emerson sta soffrendo di una malattia alla mano destra, che io stesso ho verificato perché l'ho incontrato in una trasmissione televisiva, e aveva una mano sinistra ancora prodigiosa e una destra non all'altezza della situazione. Così la notte tra il 10 e l'11 marzo del 2016 Emerson, in preda a una profonda depressione, si suicida con un colpo alla testa, ma purtroppo Greg Lake lo segue dopo poco tempo, perché Greg Lake è malato da tempo di tumore al pancreas, e pochi mesi dopo, il 7 dicembre, a 69 anni, Greg Lake torna a riunirsi al suo amico Keith Emerson. Qui i colpi d'ala partono appunto con una copertina nera con un bellissimo volatile a ali spiegate, il colpo d'ala di Emerson, Lake & Palmer, e in particolare del nostro protagonista Greg Lake, una grandissima mente, un grande cuore che ha segnato i momenti più importanti di un rock, quello che oggi si chiama prog rock, un rock che probabilmente non tornerà più perché è di livello troppo alto per questo. Questi miseri tempi che stiamo vivendo musicalmente. Se volete mandare messaggi a tutti noi, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, scrivete ai miei e ai nostri social, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.